ogni altro oggetto e a me funesto, tutto è imperfetto, tutto detesto. Di luce il cielo, ma più non brilla, più non favilla, astro per vedo, astro per vedo. Thank you. gravi son questi accenti, e fia l'estrema volta ch'io da te loda. Vado per dirmi a prenda, si audace mi disprezza, onte a soffrir non è quest'alma affetta.